24 ore in Europa, in collaborazione con Euronet. Bentrovati da Roberta Pellegata a questo nuovo appuntamento con 24 ore in Europa. Ancora una volta l'Italia è maglia nera davanti alla Corte di Strasburgo. Nel 2011 è risultato essere il paese con il maggior numero di sentenze inapplicate, 2.522 su un totale di 10.689. La maggior parte dei casi è legata alla lentezza della giustizia e quanto emerge dal rapporto pubblicato ieri dal Consiglio d'Europa è il quinto anno consecutivo che l'Italia conquista questo poco invidiabile primato. Il rapporto denuncia che le riforme prese non sono ancora sufficienti, commenta Paola Cardo, membro italiano al Consiglio d'Europa, al microfono di Raffaella Calandra. Purtroppo questo è un problema che si protrae da alcuni anni. Le cause dell'eccessiva durata dei processi sono state analizzate, ci sono stati vari rapporti e sono state anche prese misure. Il rapporto del Consiglio d'Europa dimostra che tutto questo non è ancora sufficiente. È vero, è una cosa che si protrae da molto tempo. Queste misure sono state prese, forse sono state prese un po' in ritardo e ancora le ricadute non sono sufficienti. Anche se c'è stata una diminuzione degli input nelle statistiche, no, dei procedimenti, questo non può che poi tradursi in benefici di durata. Si segnala da una parte appunto un record di sentenze inapplicate a causa appunto della lentezza della giustizia in Italia, dall'altra parte l'Italia è al terzo posto dopo Turchia e Russia per risarcimenti ai cittadini per la violazione dei diritti e poi ancora per il quinto anno consecutivo il nostro paese conquista il primato, poco invidiabile a dire il vero, del paese con il maggior numero di sentenze della Corte europea per i diritti dell'uomo rimaste inapplicate. Noi siamo in difetto piuttosto nelle misure generali perché i risarcimenti accordati dalla Corte di Strasburgo vengono regolarmente pagati. È che il nostro sistema poi produce ulteriore contenzioso, quindi il lato della prevenzione è quello semmai un po' carente, perlomeno per quanto riguarda questo aspetto dell'eccessiva durata e con, diciamo, l'insufficienza del nostro rimedio interno che è costituito dalla legge Pinto. Il rischio maggiore che incombe è un riaffacciarsi delle difficoltà europee sul debito e finanziarie, lo afferma il direttore generale del Fondo Monetario Internazionale Christine Lagarde, sottolineando che l'Europa deve rafforzare le proprie difese, il cosiddetto firewall. E in Europa la ripresa economica è graduale e presenta ancora dei rischi e le difficoltà sono legate soprattutto all'occupazione, lo spiega nel suo bollettino la Banca Centrale Europea. Non ci siamo. E forse non era necessario che a ricordarcelo arrivasse anche la BCE, ma il bollettino è mensile e dunque l'appuntamento non rinviabile. L'istituto guidato da Mario Draghi alza il livello di allarme sul mercato del lavoro in Europa. Le condizioni continuano a deteriorarsi e le indagini congiunturali dicono che ci sarà un ulteriore peggioramento nel breve termine, il che vuol dire che il numero di disoccupati crescerà. A questo proposito, Francoforte sottolinea che i paesi che hanno subito perdite di competitività devono darsi da fare, sugli stipendi e sulla produttività. Servono riforme per stimolare la crescita, uno sforzo chiesto anche a chi è in particolare difficoltà. L'aumento dei differenziali dei titoli di Spagna e Italia sono tra i maggiori fattori di rischio che gravano sulle prospettive dell'area euro. Come se non bastasse, Italia e Spagna sono anche nella lista, con Francia, Belgio, Grecia, Olanda e Portogallo, di quei paesi che quest'anno avranno un fabbisogno di finanziamento pubblico molto elevato. Ma i tempi sono cambiati, scrive l'Eurotower, talmente cambiati che i paesi europei dovrebbero tagliare i debiti pubblici a livelli inferiori al 60% del PIL, il che vorrebbe dire molti altri sacrifici per parecchi anni a venire. Valeria De Rosa, Radio 24, Il Sole 24 Ore. L'allarme di disoccupazione nell'eurozona lanciato dalla BCE non ha scoraggiato gli investitori. Wall Street ha dato la scossa alle borse europee che dopo un pomeriggio in crescendo hanno chiuso con rialzi superiori a un punto percentuale. Dopo una mattinata vissuta tra l'attesa dell'asta BTP Italia e i dati USA deludenti sul mercato del lavoro, la corsa degli indici americani ha permesso un nuovo rimbalzo ai listini continentali dove hanno prevalso gli acquisti su minerari, auto e settore chimico. In controtendenza Lisbona -1% e Madrid -0,75%, Francoforte ha registrato un +1,03%, Parigi ha guadagnato lo 0,99%, Londra l'1,34%. Positiva anche Milano con un +1,23% sul FTSE MIB. Il differenziale di rendimento tra BTP e Bund è sceso a quota 360 punti base, lo spread tra bonus e Bund oscilla intorno ai 400 punti. Per quanto riguarda i cambi, l'euro è in rialzo sul dollaro. L'Europa e le organizzazioni che difendono da 20 anni il sistema di qualità alimentari sono giunte ad una svolta: o lasciarlo soccombere oppure rilanciare la qualità come fattore determinante per lo sviluppo economico. Tutto dipenderà dall'efficacia della politica di promozione a cui l'Europa saprà dare vita per i prossimi 5 anni. Lo sostiene Mauro Rosati, segretario generale della Fondazione Qualivita per la valorizzazione dei prodotti alimentari, che a Bruxelles ha animato un ampio dibattito tra tutti gli attori della politica di promozione degli alimenti. Il commissario all'agricoltura da Ciancolos è convinto che i prodotti agricoli e agroalimentari della UE vadano valorizzati più di quanto avvenga oggi sui mercati europei e mondiali. Già ora le esportazioni del settore superano i 100 miliardi di euro, ma l'obiettivo, avverte Ciancolos, passa da una nuova ambizione per la nostra politica di promozione e per l'attuazione di una vera strategia comunitaria di valorizzazione dei nostri prodotti. Adesso la cronaca, andiamo in Calabria, dove oltre 1 milione di euro di fondi europei sono finiti in regali di nozze e villette private. Case, appartamenti, anche regali ad amici o parenti in occasione di matrimoni o altro. Generosi erano generosi, 63 indagati dalla procura di Vibo Valentia. Peccato che lo facessero con i soldi della Comunità Europea. Soldi, 1.300.000 euro, che avrebbero dovuto finanziare la costruzione di 23 bed and breakfast, mai realizzati in Calabria. In realtà il denaro pubblico è stato utilizzato per ristrutturare abitazioni private e per fare regali. Al posto delle strutture, i finanzieri hanno trovato villette in costruzione e appartamenti. Il capitano Luca Bonatesta. Con il finanziamento loro potevano acquistare il mobilio per i bed and breakfast, quindi televisori, camere da letto, in alcuni casi lavatrici, con ovviamente la relativa fattura d'acquisto. Ora, la malversazione è consistita però, in alcuni casi, è consistita nell'avere acquistato e fatturato questi mobili che erano destinati al bed and breakfast, poi in realtà li regalavano ai materiali, è capitato che li abbiano regalati al matrimonio. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. In media ogni cittadino europeo possiede 2 oggetti collegati a internet, come il telefono cellulare, il computer o il televisore. Entro il 2015 questo numero potrebbe salire fino a 7, per un totale di 25 miliardi di dispositivi con connessione senza fili nel mondo. Si tratta di un'evoluzione che, secondo la Commissione europea, è destinata a semplificare la vita di tutti i giorni, ma che allo stesso tempo richiede un quadro normativo in grado, da un lato, di sfruttarne le potenzialità e dall'altro di garantire la sicurezza dei dati personali. È per questo motivo che Bruxelles ha lanciato una consultazione pubblica sull'argomento, che invita i cittadini e tutte le parti interessate a far sentire la propria voce. L'internet delle cose, come viene definito dall'esecutivo UE, sarà in grado di offrire enormi vantaggi per i cittadini. Si pensi ad esempio a dispositivi all'interno dell'automobile capaci di comunicare direttamente con gli ospedali in caso di incidente o, se ci sono ingorghi, di permettere di fare deviazioni. Se una persona anziana dimentica di prendere una medicina essenziale, un sistema potrebbe far partire un messaggio d'allarme a un familiare o a un centro d'emergenza. Oppure, ancora, se un professore è malato e cancella la prima ora di lezione, si può immaginare addirittura che la sveglia degli studenti possa essere reimpostata in automatico per concedere un'altra ora di sonno. In chiusura andiamo in Gran Bretagna. Catturare energia dai vulcani islandesi è l'idea del governo inglese. Addio al fumo di Londra. Sul versante energetico anche la Gran Bretagna prova a cambiare rotta, riducendo quella che tradizionalmente è una fonte primaria di energia per il regno di Sua Maestà, il carbone. Al suo posto dovrebbe provvedere però non il petrolio, ma l'energia geotermica dei grandiosi vulcani islandesi. Il ministro dell'energia britannico, Charles Henry, visiterà l'Islanda a maggio per discutere i termini di un accordo che sembra vicino. I vulcani hanno l'energia, la Gran Bretagna ne ha bisogno. Ma come arrivarci? L'idea è quella di una gigantesca e tentacolare rete di cavi ad alta tensione sottomarini che raggiungano appunto l'Islanda, che si trova su uno dei nodi caldi del pianeta. E qui la novità che suona avveniristica: i cavi dovrebbero percorrere circa 1.000-1.500 chilometri, di gran lunga i più lunghi del mondo. I tecnici britannici sono convinti di riuscire a realizzarli nel giro di un decennio, per poi allargarsi all'Irlanda, ai paesi scandinavi, a Belgio, Olanda, Francia e fino alla Spagna. D'Italia per ora non si parla. Anna Migliorati, Radio 24, Il Sole 24 Ore. È tutto per questa edizione di 24 Ore in Europa. Grazie a Daniele Teruzzi, regia, a voi per l'ascolto. Un saluto da Roberta Pellegatta. 24 Ore in Europa, in collaborazione con Euronet.